quattro arti che contraddistinguono questa disciplina già da tempo, sin dai tempi delle prime macchinette, quando si capì che si stava andando verso la fine di un inizio underground terra. Esatto. Ma poi anche DJ, ragazzi, ci sono DJ di livello, DJ Muffa chiaramente, Skillsent penso lo conosce come nome, DJ Fanculo, DJ Fanculo, DJ Fanculo mi ha colpito particolarmente, esatto. Sì, esatto. È fortissimo, ragazzi, cioè venite a sentirlo perché davvero anche lui spacca. Quindi spacca. Ricordiamo, è funk, sabato, funk, sabato 30 marzo, funk, esatto. Polveriera alle 6:30 inizia Underground, quattro arti. Bella storia. Sì, sì. Bella storia. Parte il pomeriggio, poi fino a mezzanotte più o meno, quindi ci sarà la serata, live painting, fuori, insomma, tutto. Venite, mi raccomando. Dai, bando alle ciance, fateci sentire qualcosa. Ok, questo è l'attico delle buone intenzioni. Esatto. Wombat. Dai, è per voi sul Wombat. Amico, dimmi se ti gustano sti suoni, dimmi che ne pensi, te ne resti o scappi fuori. Ti piacciono i campioni, scelti da collezioni, coi solchi consumati, comprati con gli scontoni. Caro, vai sicuro, te lo giuro che non varo, a farlo sai son bravo, ho sempre campionato. Faccio quello che voglio, breakbeat un po' swingato, col basso ben presente, con l'asso assicurato. Tranquillo che bolliccio, sui passi striscio, mica te li quantizzo e lo davo per scontato. Assodato, il fatto che m'attizzo, se suono me lo mixo ed esce propulsato, pompato, che cazzo. Questo è il fatto, me ne esco pazzo. Se mentre faccio musica mi bercia dal palazzo. Merda, smetta subito, sono l'una meno un quarto. Meglio se vado a letto che qua arriva lo sfratto. Che smatto, che sbatto, m'è respirato un sacco. Se adesso stacco e smetto, di fatto ci rimetto. Quindi che cosa faccio? Caccio cuffie come il metto. Continuo ciò che ho fatto finché non m'addormento. Vieni giù con un'altra tromba che qui non si racconta. Troppa la porta come la voglia sai molta. Colta l'ultima mela, stile favela. Tipo branduati sulla trappa e capelli numera. A noi ce ne sbatte di dove tira l'arte. Perché ormai come il vento che fa volare queste carte. Grazie musica che ci tiene in disparte. Da chi ci distrae fingendosi di parte. Basta con le maschere, ormai ne sono stanco. Voglio vera gente, veri artisti sopra il palco. Ed ogni volta che lo calco voglio lasciarci il segno. Mettermi d'impegno che ogni rima sia uno scalpo. La cattiveria giusta che ogni messaggio sia impresso. Presso i meandri del tuo senno. Se no resta solo suono. Ho solo un uomo con un suono vuoto. Ora sono solo e non perdono. Chiamami Don Tuono. Arriviamo con la fotta mille. Calchiamo il palco da scintille. Se ci acchiappi sgusciamo come anguille. Se ci piace lo capisci dalle pupille. Lasciamo l'eco come conchiglie. Per esplorare percorriamo miglie. Sulla retta via come biglie. La voglia nessuno ce la toglie. Anche se caschiamo come foglie. Sciogliamo queste briglie. Vado alle ciance. Manca tempo. Non ce n'ho da perdere. Ho fuoco dentro. Non mi lascia in pace. Tramuta gioco, sentimento. Il ragionamento, il fomento. Sarebbe meglio sciallarsela felice e contento. Eccoci qua, tornati. Allora? Com'è allora? Underground? Beh, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di sentirvi dal vivo sabato. Nulla? Grippo, ci sei? Ti sentiamo? No. Ci sono? Sì? Ma io non mi sento. Ma noi sì. Ah, vabbè. Probabilmente anche gli altri sì. Sì. Si sente. Insomma, Grippo, tu che sei un musico, allora che ne pensi? Underground. Allora, mi sono appuntato un po' di cose. Beh, è ganzissima la cosa, la base sotto questa specie. Cosa sono? Violini più. Intervista lui, che è okay. Il direttore responsabile Grano, di prodotto. Grano. Dici un po', Grano. Io non lo so perché sono campioni, ragazzi. Cioè, chiaramente un po' preso da un vinile jazz. Con tutto, insomma, per creare un po' quell'ambiente che comunque ci piace a noi, che rimane un po', non lo so, un po' più antiquato, insomma. E quindi più o meno sì, il suono si cerca di riprodurre, anche la batteria è molto non va a tempo lì, infatti un po' si sente ed è una cosa voluta, insomma, creare quella controtempo. Sì, esatto, sì. Quel groove. Sì, sì, sembra sempre che tiri la musica, tira un po' indietro, le parole tirano un po' avanti o viceversa. Cioè, è molto. Sì, anche il cantato si adatta alla base. C'è un po' di barcollato, mi sembra, come sì, andamento. Sì. Molto interessanti i testi. Ora non è che voglio fare il critico, sì, no, sono no, sono a sega sì, io. No, però, io fai il critico, no, mi fa il pizzo, il musico, cioè, ho capito. Vabbè. Dai, dai. Bella, ci è piaciuta, molto, molto psycho questi violini sotto, bello. Ci stavano bestia, sì, sì, sì, molto psichedelico, molto intrippante, sì, sì, e niente, io aspetto solo il prossimo pezzo a questo punto. Sì, eh. Volevo dire una cosa riguardo all'album. Vai, tutto è nato grazie alla voglia appunto di fare queste cose, e infatti si contraddistingue nella maggior parte dei pezzi questa fotta. Io la chiamo fotta, come direbbero i Wu-Tang. Beh, comunque poi una storia di amici, di conquilinaggio, sì, sono sì, i modi migliori per condividere le passioni e non solo, crescere anche tutti insieme, cioè una cosa. Sì, questo succede con i rapporti veri, quindi arrivi a conoscere un'amicizia, bello, a costruire un'amicizia e poi ti avventuri in questo progetto musicale e l'amicizia riesce a esprimersi, a affiatarsi sempre di più. Sì, sì, sì. No, ma è curioso, ma poi si potrebbe più o meno dire noi la stessa cosa con la radio, perché, sì, immagino. Non siamo tutti coinquilini, però ci conosciamo molto bene, quindi è stato poi un percorso in crescendo, grazie proprio al fatto che delle relazioni hanno sviluppato delle competenze e via via sempre una maggior voglia di portare avanti, di crescere, di sì, sì, bello, molto bello. Avete un altro pezzo da farci sentire? Sì. Vai. Che hai? Voglio. Ok, questo si chiama voglia. No, si chiama foglie e voglia. Esatto. Foglie e voglia. Underground rimane qua con noi, ma noi cambiamo leggermente argomento. Ma magari ne parliamo anche noi. Siete di Prao voi? Qualcuno di voi è di Prao? No. No. Voi siete salentini, degli Ulivi salentini? Io sono salentino. L'ho sentito, sì, ma si intuisce dalla canzone appena passata. Però qualcuno di loro ci sarà stato. Qualcuno di voi c'era a Prao sabato scorso? Forse no. Ok. No. Allora, boh. Però parliamo di Prato lo stesso. Allora, Prato, sì, parliamo di Prato perché c'è stata anche una diretta di Radio Wombat. Questo sabato, lo scorso sabato, c'è stata la manifestazione antifascista, che poi in verità era un presidio antifascista in Piazza delle Carceri, per contrapporsi a quello che doveva essere un corteo. Il prefetto aveva autorizzato un corteo di Forza Nuova, poi ha ritrattato, è tornato indietro, ha detto no, niente corteo, fate presidio. E poi alla fine invece hanno fatto un corteo. Hanno fatto un corteo perché per dei motivi che poi sentiremo direttamente dalla bocca di Fiore, il segretario di Forza Nuova. All'incirca l'unica riflessione fatta dopo mi sembra quella cioè, di leggere, no? Presidio antifascista molto più numeroso di quello dei fascisti di Forza Nuova, però comunque questi hanno fatto un corteo quando dovevano fare un presidio, sì. Hanno bloccato una città in 150 stronzi nemmeno, e insomma comunque del risalto mediatico ce l'hanno avuto sì, alla fine un po' di risalto mediatico ce l'hanno avuto, quindi insomma bene ma non benissimo, diciamo. Anche perché magari nella piazza tanta gente era andata laggiù a sollevarsi la coscienza, no? Abbiamo fatto il nostro pezzettino d'antifascismo e nel frattempo c'era il corteo dall'altra parte e sempre i soliti compagni a indignarsi per questo, ecco. Sì, verissimo. E fra l'altro ora appena mi do, abbiamo dei contributi da farvi sentire, poi ne parliamo di questi contributi, visto che li abbiamo raccolti. Mi sono scordato di passarli al regista, quindi è colpa mia se siamo così, ecco. Fra l'altro non me li fanno neanche passare. Aspetta. Comunque fondamentalmente una piazza antifascista, soprattutto con abbiamo visto schieramenti come soprattutto il PD, la CGL, le giovani del PD e via discorrendo. Veramente tutta quest'ala della sinistra, anche qualcuno dei centri sociali, era in piazza, vi era la CISL, a un certo punto è anche spuntata una bandiera del Movimento 5 Stelle. Qualcuno confuso. Qualcuno molto confuso ha tirato fuori una bandiera dei 5 Stelle, ma subito è stato ripreso perché è sparita immediatamente. La piazza era gremita di gente, un'età media abbastanza alta, se si può dire, e non lo so, un po' noiosa secondo me. Io ero presente a Prato, secondo me è stata un po' noiosetta, però vabbè, che vi devo dire. Sembra che il Wombat nel frattempo si è attivato per risolvere i suoi problemi tecnici. Sì, esatto, sempre. E quindi intanto tirato fuori i cavi. E quindi forse abbiamo. Vai, se va con la prima intervista, vado. Siamo in Piazza delle Carceri con due compagni che ci raccontano com'è andata la giornata, almeno secondo loro. Siamo compagne e compagni di Ravenna, ci aspettavamo di incontrare più compagni, più compagni di Prato, della zona, cioè, non era molto partecipato in quanto ad anarchici, diciamo così, o antifascisti, ce n'erano tanti, ma anarchici. Perché? Questo non lo sappiamo, secondo noi c'erano troppe bandiere politiche, troppa gente, troppa sinistra, abbiamo visto anche bandiere del Movimento 5 Stelle, a noi non è piaciuto e abbiamo immaginato che le persone di qua lo sapessero, che c'era questo tipo di partecipazione e non abbiano partecipato loro. Vi è sembrata una buona idea il fatto che si sia svolto un presidio e non un corteo? Avremmo preferito il corteo. Per quale motivo? Perché è più dinamico, meno parole ed è più bello, magari più slogan, partecipazione diversa, ecco, meno dall'alto e più trasversale. E per far vedere ai fascisti che siamo in tante e in tanti. Ecco, quindi è stata un po' una passerella questa qua politica. Sì, ci è sembrato così. Da giudicare dal numero di bandiere, sì. No, per precisare, appunto, voi avete due bandiere, una dell'anarchia e una dell'antifascista, Action Nera. Anarchica anche questa. Diciamo. Bene. Allora, grazie mille e questa è la Wombat. Volevo aggiungere, se volete venire tutte e tutti il 6 aprile a Cesena, che ci sarà un bel corteo antifascista contro il decreto Salvini, contro tutti questi razzismi. Il fascismo di governo. Vi aspettiamo, venite numerosi, noi saremo tanti. Bene, grazie. Grazie a te. Ciao. Questo è quanto avete sentito, erano due partecipanti alla, al presidio. Breve cronaca della giornata, siamo arrivati in Piazza delle Carceri alle 2:30, era già gremita di persone e Piazza delle Carceri è situata nella parte sud del centro di Prato. Scusa se te l'ho spoilerata prima. No, figurati. Già detto, figurati. mentre il presidio, che poi è stato un corteo di Forza Nuova, era nella parte nord, quindi a nord della ferrovia, nei pressi di Prato, Porta al Serraglio. Essendo stato vietato un corteo, ma bensì un presidio, hanno scordato la logistica, perché era previsto che tutti gli antifascisti scendessero a Porta Serraglio, cioè vicino al presidio di Forza Nuova, mentre i fascistelli devono scendere sono dovuti scendere a Prato Centrale, cioè vicino al presidio degli antifascisti. Questo ha fatto sì che tendenzialmente i fascistelli, Forza Nuova, che è scesa tutta insieme da un treno, poi è dovuta andare verso Piazza del Mercato Nuovo, e quindi di fatto scortata dagli sbirri è stato un vero e proprio corteo. La città era blindata, veramente completamente blindata, cioè tutta la parte intorno a Piazza del Mercato Nuovo era transennata, non c'era verso di entrare, e loro sono stati scortati, c'era un sacco di polizia in borghese, un sacco di persone a fare foto, a fare video, sì, questo, una tensione abbastanza creata, perché poi alla fine sono stati contati questi qui e erano circa 150, c'è chi dice 137, c'è chi dice 156, insomma due coglioni comunque alla fine, nel senso. Vabbè, non è che cambia fuoco. Chissà cosa. Quel che si vede dalle immagini della rete, non essendo, cioè ci sono tantissime immagini della rete. Ci sono tantissime immagini, sì. Perché? Allora, vabbè, intanto magari la notizia è arrivata all'altra piazza, alla piazza antifascista, che loro avevano fatto un corteo, non ha suscitato grandi chissà che, però lo sapevano. Io infatti, se siete d'accordo, vi mando anche un'altra intervista fatta invece a un uomo delle istituzioni, e cioè il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Ve lo faccio sentire. Abbiamo qua il sindaco di Prato, una domanda velocissima: la giornata di oggi com'è andata? Adesso vediamo quando tutto sarà finito, per ora sembrerebbe tutto a posto, due cortei ci sono stati di Forza Nuova, uno all'andata, uno al ritorno, uno sfregio enorme alla città, dal punto di vista dell'ordine pubblico sembrerebbe che insomma non ci siano state particolari tensioni, la fortuna è questa, certo rimane il fatto di uno sfregio pazzesco a quella che è una città che tutto si meritava fuorché essere protagonista della manifestazione che celebra i 100 anni della costruzione del Partito Fascista. Rovina la giornata qui in Piazza delle Carceri in questo tempo? No, questo è un fatto che prescinde. Piazza delle Carceri è una bellissima risposta, è una piazza fantastica, è una piazza di una Prato, di una Toscana che ha detto che comunque ora sente questo manifestazione di Forza Nuova come una violazione, come un sopruso, e ha voluto manifestare pacificamente con la musica e il sorriso in questa piazza, riempiendola in maniera inverosimile, e va bene così. Avete attivisti di Forza Nuova a Prato in città? Sicuramente c'è alcuna sede, c'è un candidato sindaco di Forza Nuova, quindi c'erano già state manifestazioni della destra anche più estrema, però nessuna di loro aveva celebrato la nascita dei fasci di combattimento, è che si è superato un argine secondo me che non bisognava superare. Questo argine non l'ha superato tanto l'amministrazione quanto la prefettura? Ah, noi l'abbiamo detto dall'inizio, sono stato il primo in questa città, quando mi sono reso conto che lo stava succedendo, a dire che questa manifestazione non andava fatta, che non era giusto e non doveva essere in alcun modo autorizzata. È stata fatta una scelta diversa, io rispetto le istituzioni, sono uomo delle istituzioni, però resta il fatto che a mio modo di vedere questa autorizzazione era sbagliata. Bene, grazie mille. Siamo tornati, avete sentito Matteo Biffoni. Soddisfatto. Era soddisfatto, tutto sommato, sì, era abbastanza soddisfatto. Quindi noi sti mal di pancia non li capisce il sindaco? No, una piazza probabilmente colorata, musica. Sono nostri forse, li sentiamo solo noi? Tu che dici? Ma pare di sì. Insomma, piazza colorata, hai visto? Tutti insieme, alle, lo battiamo il fascismo. Così, esatto. Ma dai video invece si è visto, insomma, che alcune situazioni di tensione si sono create. Alcune situazioni si è visto, sì. Il trattamento assolutamente, cioè almeno da casa, guardando i video, si vedeva proprio il trattamento diversissimo delle forze dell'ordine, che utilizzano sempre due pesi e misure differenti quando si tratta di arginare un corteo di compagni o un corteo di fascistelli. Vero. Senti, ma io ti propongo di sentire anche a questo punto la voce di Fiori, così da... Certo, così ci sa tutto. Così abbiamo tutte le... I vari pensieri e... Una de-escalation praticamente, dalle compagne anarchiche. E poi magari ci ragioniamo un attimo sopra. Al sindaco di Prato. Vai, lo sparo, eh? Vai. Per fortuna c'è stato. Ma noi non ci sembra di aver chiesto chissà che cosa. Abbiamo chiesto una manifestazione in occasione della presentazione del nostro candidato sindaco Massimo Nigro. Noi abbiamo il diritto di fare tutto ciò che è consentito agli altri. Lo Stato antifascista non può più esistere, è necessario oggi che ci siano diritti e doveri per tutti uguali, non ci può essere una discriminazione, noi è questo quello che stiamo chiedendo. Poi abbiamo tutti i nostri ragionamenti, le nostre battaglie ideali, che sono quelle che esporremo durante il comizio. Ecco, voglio dire, il corteo non era stato autorizzato, di fatto le bandiere ci sono. Autorizzato o non autorizzato, lasci perdere, queste sono questioni minimali e anche poco interessanti. La questione politica è che Forza Nuova non si ferma di fronte ai diktat dell'AMPI, di cui fra l'altro oggi chiederò che, del quale chiederò che sia, siano privati i fondi che gli arrivano dal Ministero della Difesa. Ci dicessero chi ha fatto apologia, ma soprattutto a quanti italiani interessa la tipologia di reato di apologia di fascismo, quando in Italia abbiamo uno scandalo come quello del guidatore d'autobus che diventa guidatore d'autobus di bambini quando è pedofilo. Questa è la cosa seria, questa è la cosa seria, gli danno pure la cittadinanza italiana. Oramai gli italiani hanno capito che questa del fascismo antifascismo è una grande... Ecco lì, quindi la butta in caciara fondamentalmente Fiori. Alla fine dice, vabbè, sì, ho capito, ma... noi, ma e gli altri, allora, sì, ok. Non si è giocata male, comunque. Allora, sì, non si è giocata male. Uno, una bugia però si può dire, perché non era lì a presentare il candidato sindaco di Prato, Nigri, bensì l'hanno rivendicato su Facebook. Questo è un post fatto dopo tutte le... cioè, il sabato hanno fatto delle manifestazioni in varie città d'Italia. Loro dicono 100 anni di giovinezza, Prato, Fiumicino, Palermo, Torino, Perugia, Catania, Vicenza, Crotone, appunto loro festeggiavano i 100 anni dalla nascita dei fasci di combattimento. Quale candidato sindaco a Prato? Quindi già questa è una bugia. Poi vabbè, la butta in caciara. Una cosa dice fondamentalmente... che loro si equiparano a tutti gli altri schieramenti, non è che c'è differenza, non è che possono essere trattati in modo differente, perché? Perché anche loro è un'ideologia, c'è, va rispettata. Sì, questo secondo loro esserci è l'importante, quindi questo è lo, lui ha un, fa un, dà un valore politico alla loro presenza lì, e effettivamente è quello che è, perché erano 137 coglioni, non è che fossero chissà quanti, però appunto hai detto, hanno avuto rilevanza, perché fa parte del percorso di continua erosione, no? Sempre sì, un passettino sì, sì, in più, sempre ci si avvicina, si rende sempre più più normale, eh? Quindi... È vero che ci si aspettava numeri diversi, ce ne aspettava di più, però comunque esatto. Il risalto ce l'hanno avuto, hanno fatto un bel casino, hanno fatto anche un corteino alla fine. Sì, fra l'altro hanno anche quasi menato una persona in tutto questo, che fortunatamente non è rimasto ferito, solo un grandissimo spavento, però hanno quasi acchiappato una persona, se è uscita fuori illesa solo perché è stata veramente in gamba a uscirne. Il ragionamento da fare, non lo so, contrapposto le due piazze, da una parte quella di Forza Nuova che chiede legittimità, nonostante che la loro posizione che siano assolutamente al di sopra della legge, il trattamento ben differente perché sì, sono stati scortati, gli hanno fatto fare il corteo alla fine, un trattamento che... non si può dire, secondo me, spudorato fino in fondo, però perché quella che era una carica era un po' due carezzine. Sì, sì. Però ecco, diciamo, è stata gestita l'ordine pubblico in modo che loro potessero fare tendenzialmente quello che volevano senza grossi problemi. La contrapposizione, l'altra piazza, enorme, colorata, bellissima, secondo me anche utile, ha dato servono per dare un senso di unità. A me viene anche da dire, però, un po' come dicevano le compagne anarchiche, la coerenza a volte viene un po' meno. Perché? Perché a me viene in mente, è passato solo un anno, anche se sembra un tempo pressoché infinito, ma poco più di un anno fa un certo Luca Traini a Macerata, sparava a diverse, a sei ragazzi africani, e ne seguiva una manifestazione enorme dove gli schieramenti presenti l'altro giorno a Prato non erano presenti, non aderirono. Si sta parlando di CGIL, si sta parlando dell'AMPI, si sta parlando dell'ARCI, si sta parlando del PD. Perché? Perché non aderirono? Perché quelli erano tempi bui, era la fine della campagna elettorale in vista del 4 marzo 2018. Non era il momento di cavalcare l'onda. Erano al potere, mentre adesso invece è diverso, le elezioni ci sono di nuovo, ma loro sono all'opposizione. E allora, qual è la differenza fra l'antifascismo durante le elezioni e l'antifascismo quando... invece, anzi, l'antifascismo quando sei al governo e invece quando sei all'opposizione, dove sta la differenza? Uno è autentico e l'altro è elettorale, non lo so, però forse non ci dobbiamo spingere fin questo qua, lasciamolo dedurre a ascoltatrici e ascoltatori. Di forse fatto sì, noi quello che ci interessa è mettere in luce un po' questa incoerenza, si è antifascisti un po' quando fa comodo, non è un principio, mentre quello che sosteniamo noi è che l'antifascismo non solo è un principio, è una pratica, è una cosa che tutto tutti l'anno, i giorni, tutto i giorni, tutto il giorno, tutto quello che si fa. Esattamente. Quindi non so se queste cose in Salento succedono, però... Succedono abbastanza anche. Ecco. Il fatto è... un esempio ne è la TAP, forse, che non è proprio una questione di fascismo puro, di avanzata di movimento, però è il fascismo istituzionale della lobby dell'economia che si muove sempre a favore della moneta e quindi arriva e compra e distrugge il territorio tranquillamente. Quindi lì il fascismo è sempre vivo e lì l'antifascismo militante del popolo che cerca di difendere il suo olivo, difendere la sua terra. In Salento i problemi sono simili e uguali ai nostri. Siamo in Italia, il problema è il solito. Siamo in Europa, il problema è il solito. Bene, comunque non credo. Sì. No, assolutamente si può fare TAP, MUOS, no TAV, TAV, si può fare veramente tantissimi parallelismi con gli ulivi, insomma, tra l'altro, di cui si parlava prima, perché poi magari non ci dilunghiamo. Comunque, niente, quindi Prato è stata una cosa così, e di per sé note positive, una buona risposta, note un po' negative, secondo me è una cosa un po' poco coerente. Abbiamo fatto una diretta, la potete trovare in podcast per capire esattamente che cosa stava succedendo, vi potrete un po' immedesimare nelle persone che erano presenti lì, c'è il podcast, ve lo potete riascoltare. Non era l'unica manifestazione che c'era il 23, però, No, ce n'era anche un'altra. Tempo anche a Roma avevamo... A Roma, e fra l'altro abbiamo una persona che ha partecipato qui a Roma. Prego, prego. Ha partecipato a Roma e ciao. No, chi non è... molti non sono venuti a Prato perché sono andati a Roma. Infatti questa era la risposta che io volevo dare a quelle ragazze che ho intervistato, a quelle due compagne di Cesena. Molti dei compagni erano a Roma. E la manifestazione di Roma è stata una manifestazione magnifica. A parte la partecipazione, che è stata veramente enorme, più di 100.000 persone, tanto che non ci stavano dentro a Piazza San Silvestro, insomma, Piazza San Silvestro, scusate, Piazza, insomma, dove si è arrivati adesso? A San Giovanni. Piazza San Giovanni, scusate. Era stata una manifestazione magnifica, perché non solamente per la quantità di persone, ma per le realtà rappresentate, perché non è che c'erano solamente la TAV, il MUOS, il MOSE di Venezia, le diverse situazioni, quelle note, ma c'erano moltissime situazioni di cui non si parla mai, ed erano queste diecine e diecine di situazioni presenti lì, che erano presenti contro gli inquinamenti, contro i dissesti, contro i disastri ambientali, ed erano situazioni di cui non si parla mai, ed erano presenti in modo molto organizzato, con gruppi di tamburellatori, gruppi di danzatori, con carri allegorici, insomma situazioni che erano presenti in modo molto, molto organizzato. E voi vi ricordate lo slogan "lotta dura senza paura"? Lì c'era "lotta dura per la natura", ed è stata questa certo. la nuova. Fra l'altro scusa, ma è stato anche molto interessante il percorso per arrivare a questo corteo, a questo grande corteo, grandissimo corteo direi, visti i numeri, che è stato un percorso che è partito da lontano. Ci sono stati vari appuntamenti a Torino, in altre città e nell'arco degli ultimi mesi, che poi ha portato appunto a far confluire tutte le realtà che in un certo modo lavorano per in una direzione, quindi quella della sostenibilità, di contenere gli effetti del surriscaldamento globale e dell'inquinamento, eccetera eccetera. Quindi cioè, questa qui è stato, questo corteo è stato un po' l'espressione di un nuovo modo di arrivare alle mobilitazioni, di portare avanti le mobilitazioni. Poi appunto si esprime anche attraverso slogan nuovi e nuove forme, è quello che ci racconti. Prego, scusa, non ti volevo interrompere. No, la cosa che stupiva lì era come queste diverse realtà, che sono poi in generale sono ognuna si muove per conto suo o altro, hanno trovato un momento di convergere tutte insieme. Ecco, questo è stato un po' anche addestrato un certo stupore, cioè la capacità organizzativa di mettere insieme tutte queste realtà molto eterogenee tra di loro, molto che non si esprimevano in modo omogeneo sul piano politico, però sul piano ambientale, invece sul piano di far presente le contraddizioni, i disastri, quello che succedeva in Italia. Cioè, vedendo questa manifestazione sembrava di veder scorrere davanti agli occhi l'Italia. Noi l'abbiamo percorsa perché cercavamo delle persone, quindi a un certo momento l'abbiamo dovuta scorrere tutta, no? E era come vedere un film davanti agli occhi di quella che è l'Italia di oggi e quali che sono i disastri e i problemi di oggi e di come la classe politica non li sta per niente affrontando. Sì. Volevo farle una domanda riguardo a questo, tralasciando il fatto che diciamo, è la prima volta che incontriamo pericoli e problemi del genere, ma a prescindere da questo, quando è che ricorda l'ultima volta che così tante persone hanno convergevano verso lo stesso punto? L'ultima volta che ricorda che è successo questo, perché io non posso sapere, sono giovane. Più giovane. sto spuntando. Ma io mi ricordo, non so, quando c'è stata la manifestazione, cioè per riempire con così tanta gente quella piazza. Mi ricordo la manifestazione contro Berlusconi, insomma, quando c'era Cofferati, insomma, ma da allora c'è stata poca occasione di avere una tale convergenza. E questo è quello che c'è di veramente notevole, è che allora, dico, quando c'era la manifestazione con Cofferati contro Berlusconi o altro, era un po' la classe operaia tradizionale quella presente in piazza. Invece quella che era presente l'altro ieri erano persone in qualche maniera nuovi modi di esprimersi, nuovi modi di partecipare, nuovi modi di lottare, nuove motivazioni. Ecco, c'era qualche cosa di nuovo che attualmente non si sta esprimendo sul piano politico, perché penso che molti di quelli che c'erano ieri sono gente che magari non va a votare e che chissà per quanto tempo non andrà mai a votare, ma non è gente che non conta, perché è gente che sul proprio territorio conta. Poi noi sul piano politico vediamo anche i risultati della Basilicata, la destra che vince anche in Basilicata, certo, perché queste attualmente queste espressioni, queste forme di lotta non stanno trovando un interlocutore politico, perché un interlocutore politico non c'è che li sta in qualche almeno maniera non c'è aggregando. Un interlocutore possibile affidabile, ecco, affidabile. O coerente, perché poi andiamo a vedere anche la manifestazione l'altro giorno di sabato a Roma sui media è passata abbastanza inosservata, cioè, quindi sì, è vero, però le vertenze che stanno venendo fuori sono più vertenze non ideologiche, bensì pratiche, no? E quindi è vero, riescono ad abbracciare uno spettro molto molto ampio di partecipanti, di persone. E questo forse ci può insegnare tanto, dobbiamo trarre il punto da questi... Sta cambiando. Bisogna cavalcare queste onde emotive, anche nel senso, delle volte basta una scintilla, si accende l'interesse di tante persone su un argomento e magari può essere l'occasione nuova per intercettare nuove persone che si attivano alla fine per cambiare il mondo che le circonda. Probabilmente ce n'è anche bisogno, nel senso, sì. La vita dei movimenti è... funziona anche perché si rinnovano, perché devono essere... Sì. Diceva bene il compagno, cioè sì, c'è nuove cose, si sta iniziando a vedere nuove forme in generale. Ecco. L'attenzione sul clima sicuramente ora è fortissima, ma perché effettivamente è abbastanza un'emergenza, anche nel nostro piccolo possiamo percepire, anche in Salento possono percepire sì, tante di quelle cose, perché il Salento fra l'altro è uno dei luoghi d'Italia che sta avendo delle difficoltà enormi, soprattutto riguardo sia al clima, alla natura, soprattutto nella principale cultura della Puglia, che è quella dell'olivo, che è messa in ginocchio da questa famosa xylella, che è un po' la colpa dei contadini con i trattamenti intensivi di diserbanti, sì. Questa cosa di 30 anni, un po' i fertilizzanti, un po' questo, un po' anche la cultura spagnola di oggi, che anche sta minacciando in Toscana. Io faccio il giardiniere, quindi ne sono consapevole. E la xylella un po' importata da queste varietà nuove di olivi intensivi messi a filari per essere raccolti a macchina, e quindi porta a queste malattie che poi attaccano l'olivo classico, il leccino, il morellino, sì, sì. Che sono olivi del nostro paesaggio autoctoni. No, infatti io leggevo un articolo qualche giorno fa che parlava proprio di questo, di come il prezzo dell'olio è cambiato. Praticamente più che raddoppiato, quasi triplicato in Italia da quando è andato via quello salentino. Da quando quello salentino è stato messo in ginocchio dalla xylella, e anche nell'ultimo inverno ci sono state delle gelate che hanno praticamente distrutto veramente intere olivete, e quindi questo già dal 2018. Il prezzo, i produttori sono meno, il prezzo è salito tantissimo, e questo problema non trova una risposta politica, al contrario. Ma una risposta economica, sì. È una risposta, no. Però perché comunque è un problema presente già in altri paesi, la Spagna, la Grecia, e alcuni lo hanno affrontato. Serve una ricerca, fondamentalmente serve investire sulla ricerca per trovare delle soluzioni più velocemente possibile a questo problema. Nel frattempo si stanno attrezzando, dice, soprattutto le nazioni che producono olio del sud del Mediterraneo, cioè Nord Africa, l'Algeria in particolare, stanno puntando molto sull'olio, grazie alla crisi dell'olio italiano. Sì. Interessante. Sì, questo è quanto. Quindi il cambiamento climatico, appunto, non si risponde più a problemi ideologici, ma pratici, cioè non si fa più l'olio, non si mangia più. Iniziano ad essere toccati certi problemi di bisogni principali dell'essere umano, in cui la politica non riesce più a trattarli, e l'ambiente, quando si inizia a degradare, a rovinare, anche chi non segue la politica si sente toccato da questo problema e scende giù in piazza, come... sottolineava prima, sì, sì. L'intervento. Certo. Io, scusate l'interruzione, vorrei dire una cosa a riguardo, ma si può protestare quanto si vuole, possano dire quello che gli pare alla televisione da tutte le parti, ma la NATO 4 anni fa ha dichiarato che si doveva ridurre drasticamente le emissioni di CO2. Ciò non è avvenuto, siamo fottuti. Siamo in ritardo di 4 anni. Questo è vero. Ne hanno dati tanti. E ancora, sì, e ancora, sì. Non ci muoviamo, e quindi pensate. Sì, sì, con questo muoversi non è che, insomma, può avere un'utilità, sembra. Poi ora, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare su

poco sarò molto giù. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. No, scusate, io sono veramente in fibrillazione. Cioè, a me quando i cantautori. Quando c'è si il concerto? Muovono, quando suona? Il 20 aprile, se non mi sbaglio. Aspetta, c'ho la pagina aperta. Accidenti a me, l'ho levato per ora. Il 20 aprile a Preau. 20 aprile a Preau. A Capanno 17, in via Genova 17-9. Bene. A Prato. Perfetto. Il 20 aprile. Tutti via. E domani, tra l'altro, presenta il disco. Però noi non ci si va perché c'è l'assemblea. Esatto. Presenta il disco in un posto che non vi diciamo. In un posto non vi diciamo, no? Se andate tutti al concerto, perché tanto il disco mica, cioè, tanto no, presente il disco, c'è un botto di gente, cioè, appunto, un presentazione del disco, tranquillo. Si sgomita. E invece domani, per i compagni c'è un appuntamento importante per l'organizzazione della manifestazione, sì, per la commemorazione di Orso, il Hevalte Kosher. Siamo stati martedì scorso al Campino e sono stati momenti abbastanza interessanti, molto interessanti, tristi, interessanti e emozionanti, anche in alcuni momenti quasi incoraggianti, no? Era un momento di profonda tristezza per tutti quanti, ma insomma penso che tanti dei presenti abbiano avuto il cervello frullante per tutta la settimana. Sì, sì, si può dire anche fra l'altro come è andata, perché è stata, certo, un'assemblea partecipatissima, c'erano veramente tante persone, sono state più di 100 persone, più di 150 secondo persone. Secondo me forse. Sì, anche più di anche 150, più, sì. E tutti riuniti in un cerchio in questa grande stanza, c'erano i genitori, c'era il rappresentante della comunità curda, c'erano i compagni, c'erano gli amici, e quindi è stata veramente una cosa molto... sì, impegnativa perché facciamo una veloce cronaca. Sì, l'inizio è stato molto solenne, un inizio lo definirei quasi militare, diciamo. Militaresco, a parte, sì. Sì, non lo so, almeno l'impressione poteva essere quella di essere tutti in guerra, ecco, catapultati, no? Uno entra al Campino dal Rifredi, no? Sei a Firenze. Entrato nella stanza lì mentre si ricordava Orso, ecco, c'era clima di guerra, cioè si sentiva i compagni curdi che erano venuti per ricordare il nostro compagno caduto, ci hanno parlato di lotta al fascismo, ci hanno parlato di lotta al fascismo vera, di lotta al cioè vera, non che non sia vera la lotta al fascismo che possiamo fare nelle strade nostre, però di lotta al fascismo con il fucile tra le guerra mani, cioè guerra vera, guerra a un fascismo insomma, che si mischia poi con altre idee, con altri interessi, con altro tutto, però insomma c'era proprio questo clima di guerra. Dopodiché hanno parlato diversi compagni delle realtà fiorentine. E si è parlato molto del non strumentalizzare, ecco, la figura del compagno Tecocher, Salvini, Nardella, sono stati nominati tanti politici di spicco a livello nazionale che non hanno colto l'occasione per star zitti o per dire le parole giuste, ecco, diciamo, non è stato nemmeno proclamato un lutto cittadino. Sì, diciamo che qualsiasi parola sarebbe stata strana nella bocca, sì, di un politico, perché esatto, per vari motivi. Comunque, fatto sta che questa cosa poi è succeduta invece agli interventi ben più interessanti. Del padre, c'è stato l'intervento del padre Alessandro, che il quale ha fatto proprio un intervento da padre, ha parlato di suo figlio Lorenzo, delle sue caratteristiche, facendo proprio esempi di come lui, da bravo anarchico, nel senso si definiva così, ecco, andava sempre oltre, andava a dubitare di ogni cosa. Allora, non mi ricordo che esempio aveva citato, forse la raccolta differenziata, cioè che lui in casa diceva che era importante riciclare, babbo Alessandro, sì, e Lorenzo andava ancora al di là, cioè, meno, sì, di essere... voleva passare il concetto di essere critici e di domandarsi passo passo tutto quello che si fa e tutto quello secondo che me si più vede. Che essere critici, di essere sì, no, oltre il critici anche radicali nelle scelte, sì, sì, e sì, quindi sì, andare sì, veramente a approfondire dei concetti. Certo, Successivamente ci sono stati invece gli interventi, anche prima c'è stato un intervento di un amico sempre sulla certo. strumentalizzazione della figura di Lorenzo Orsetti, e l'hanno ribadito chiarendo anche che la strumentalizzazione può non venire per forza da dei soggetti politici di spicco, perché c'è il rischio che questa strumentalizzazione arrivi anche da luoghi, da posti che magari prima il compagno Orso lo vedeva in un certo modo, ecco, quella cultura, quella radicalità. Quindi sì. Ricordo le testuali parole: noi siamo radicali tutti i giorni, anche nella vita quotidiana, anche nelle piccole cose, e questo è un fatto che non è stato capito e comunque che difficilmente viene compreso anche dagli spazi dell'estrema sinistra. Quindi era una critica verso più fronti. Sì, più che altro nel senso si sentiva il dolore degli amici che chiedevano di non strumentalizzare la non strumentalizzazione, sì, da parte dei personaggi di Spiegel, però si sentiva anche la rabbia, insomma, degli amici per alcuni disagi, ecco, per alcune incomprensioni, problemi, che però alla fine, nel senso, la cosa importante è stato importante forse che siano state dette tutte queste cose all'interno di quel momento, anche se insomma hanno creato situazioni di tensione, sì, vabbè, sì. È stato giusto. Io penso che fondamentalmente anche i compagni pisani a un certo punto hanno detto: bisogna passare da una memoria singola a una memoria collettiva. Certo. Nel pensare a Orso e a quello che la sua vita ci ha lasciato, no? Ai messaggi, alle idee, alle intuizioni, le spinte, cioè ci sprona in una determinata direzione. Ecco, questo, passare da una memoria singola a una memoria collettiva. Però questa memoria collettiva deve essere reale, deve essere realmente una riflessione, perché io penso che tutti noi abbiamo da riflettere e anche naturalmente da studiare. Ecco, cioè, ci sono molte cose che si potrebbero dire riguardo all'origine di questi, certo. di questi problemi all'interno degli spazi dell'estrema sinistra fiorentina, anche nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, per poi adesso invece portarlo come eroe su un palmo di mano. Magari, capito? Cioè, io immagino che agli amici possa far strano vedere questa contraddizione, che un anno e mezzo fa, due anni fa, in un modo, e adesso è morto e ha fatto quel che ha fatto in tutt'altro modo. Quindi lo si deve capire in questo momento, forse, nel senso, o comunque ci offre un grande spunto degli spunti di riflessioni, anche perché dopo la comunità curda ha tirato le fila, ci ha riportato tutti al fatto che stiamo lottando uniti contro il fascismo, ci ha riportati a quel clima militaresco che c'era inizialmente, ci ha riportati alla realtà dei fatti, cioè che siamo in una guerra, e anche se noi non vediamo i fucili, la guerra c'è, la guerra la stiamo lottando tutti e dobbiamo lottarla uniti per vincere davvero. E quindi insomma, c'erano tante cose, come sempre, no? Le persone quando muoiono fanno parlare molto le persone intorno a sé, no? Anche se non parlano più, è giusto non rispettare, è giusto non parlare a vanvera, è giusto cogliere i messaggi giusti, universali, evidentemente, almeno per le persone che erano presenti lì, che ci ha lasciato questo compagno che ha dato la vita per tutti quanti noi. In particolare mi verrebbe da fare il parallelo tra due frasi che sono circolate e nei social e nelle nostre teste in questi giorni, sicuramente, non citando quella della goccia ben più famosa, che è diventata un po' anche slogan, seppur bellissima, non la cito. E una delle frasi di Orso era che solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo di ciascuno di noi si può fare la differenza. E questa, letta in chiave di quello che, insomma, che abbiamo appena detto sullo svolgimento dell'assemblea, secondo me è una frase molto importante. E anche la frase, una delle frasi che successivamente sono state lanciate dagli spazi sociali, mi pare nello specifico dal CPA, era quella che ognuno di noi deve dare qualcosa per fare in modo che alcuni di noi non siano costretti a dare tutto. Ecco, uniamo un po' il senso di queste due frasi e credo potremmo trovare, ecco, il modo più giusto per ricordare Orso, cioè lottare più forte ancora tutti quanti noi e cercare l'unione nella lotta contro il fascismo, contro chi opprime, contro sì. Chi opprime i più deboli. È così. Quindi, a me viene da aggiungere che se ora stiamo ad ammirare la radicalità di un gesto compiuto da Orso, ci dobbiamo anche ricordare che quella radicalità è possibile riportarla in molti ambiti quotidiani della nostra vita e quindi certo. Un po' proseguire il percorso e ampliare, se vogliamo, anche il percorso iniziato da Orso. Questo era un po' quello che abbiamo anche comunicato suo padre, no? Quando diceva che Lorenzo dubitava di ogni cosa nella sua vita. Esatto. E sono tutte letture che vengono da quella, esatto, da quell'assemblea. Allora, abbiamo anche un comunicato, però è un po' lungo, noi siamo un po' in ritardo, magari non ve lo leggiamo perché abbiamo ancora tante cose da fare. È il comunicato diramato dall'assemblea di martedì scorso. L'assemblea di martedì scorso era il 19 di marzo, cioè diramato poi dalla rete Kurdistan. I prossimi appuntamenti sono quello di domani, sempre al Campino, alle 18.30, c'è un'ulteriore assemblea organizzativa in vista del corteo che partirà domenica 31 marzo alle ore 15 da Piazza Leopoldo. Esatto. Al Campino, che ha intitolato una delle sue sale a Orso. Bene. Direi che possiamo andare avanti. Anche se è difficile, quindi forse sarebbe bene spezzare il tutto con un pezzaccio dalla regia di Grande Drago. Dai, Grazie. Sono sempre gli Underground con il pezzo che si chiama Lungo l'Arcol. Hola chiche. Comandiamo. Ma qui ci siamo. Super grano. In base alla sera prima che succede, me ne esco con il suppa che conviene. Niente che picci tiene, diretti indo si beve. Troppe fighe a sedere, ci prendiamo una bottiglia e 28 euro di tagliere. Ok, piglia bene, si parte con le risate. Cannoni di legale, qua tutto è regolare. Universitari con sorrisi che fanno strafare. Che parla di stronzate in cerca di un uomo audace. Tranquille ci sia noi, man in black t'assicuro. Vogliamo farci fatti tuoi, non ci batte nessuno. Non restare nell'oscuro, se ti illumina la luna. Coraggio, niente paura, rompiamo le queste mura, coraggio, sganciamo il numero, famo un cenino subito, giusto per gusto ludico, mica faccio lo stupido, scialla che non ti giudico, baciami pure in pubblico, stagione degli amori, cosci fuori tipo musical. Dai, pastaio, le brioche, il tabaccaio, nel polmone, lungo l'arma, la densol, piscio dietro l'angolo, che è successo non lo so, se non ricorderò, sono solo sfarenato e dopo mi riprenderò. Dal pastaio, le brioche, il tabaccaio, nel polmone, lungo l'arma, la densol, piscio dietro l'angolo, che è successo non lo so, se non ricorderò, sono solo svarionato e dopo mi riprenderò. Ieri sera un ricordo che non c'era, svarionato e mescolato all'ennesimo rum e pera. C'era un tipo che beveva, sembrava una ciminiera, con cravatta, righe d'una, camicia, cotone o seta. Non ricordo se era nera, ma la luna era piena. Il ricordo mi raffiora, ieri sera ero in pena. Me lo ricordo a tratti, a fatti, eravamo fatti, ci siamo raccati tardi. Colpa del Bacardi, mischiato a tutti gli altri calimocci con gli spagnoli. Rum e cola poi da soli e la birra con i sardi. Tante tipi interessanti per i locali delle city. Siamo i tipi che tu inviti a leggere i tuoi spartiti. Dai bella stacci, prendi un altro bicchierino. Uno in più, uno in meno, cambia mica il tuo destino. È da due ore che ti miro, vieni con me a fare un giro. Sembri un viso conosciuto ma che abiti qui vicino. Dal pastaio, le brioche, al tabaccaio, nel polmone, lungo l'arma, la densol, piscio dietro l'angolo. Che è successo non lo so, se non ricorderò, sono solo svarionato e dopo mi riprenderò. Dal pastaio, le brioche, al tabaccaio, nel polmone, lungo l'arma, la densol, piscio dietro l'angolo. Che è successo non lo so, se non ricorderò, sono solo svarionato e dopo mi riprenderò. Ari, eccoli. Oh. Avrei sentito Lungo l'Arcol che parlava di una serata alcolica. Ci stava un po' di... Nelle vie di Firenze. Sì, ci stava un po' un racconto, anche un po' più di sbazzo classico della quotidianità, della routine di ognuno di noi che capita per questa città alla fine. Quando ben sentiamo la dura terra in quelle serate in cui assaporiamo. Esatto. il cuscino naturale dell'uomo, no? Poi, appunto, questo vagare per la città da un pastaio al tabaccaio, esatto. Già, e quindi poi le ragazze, sì, proprio quel vagare che non piace a Nardella, insomma, esatto, sì, esatto, bravo, esatto. Quello che volevo prima, quel conquistare e prendersi la città, viversi la città. Sì. Non l'ho ascoltata tutta perché durante il pezzo mi sono messo a mettermi d'accordo, cioè c'era anche una parte sulle fioriere oppure no. No. No, però era sì era sotto il sì. Bene. No, grande, ma anche lì sì, ma anche lì a fa serata, insomma, certo, sì. E niente, cosa dire, andiamo un po' avanti, andiamo a parlare degli eventi della settimana, cosa facciamo? Andiamo, no, abbiamo un altro corteo da... Abbiamo un altro corteo da lanciare, sì, da lanciare, esatto. Bisogna... Il corteo del 30, in verità, è molto importante. Questo fine settimana siamo pienissimi di eventi. Il 30, che è sabato, ci sarà un corteo, sì, Parco della Piana, no, aeroporto. E l'appuntamento è al Polo Scientifico. E noi chiameremo una compagna del Polo Scientifico, del collettivo di scienze, che... Con quale telefono la chiamiamo, ragazzi? Voi fate tutti finta di niente. Però nel frattempo abbiamo bisogno di un telefono. E, perché? Perché il Polo Scientifico è un posto, è un luogo che è fortemente a rischio per la costruzione del nuovo aeroporto, in quanto arriverà la pista veramente a poche decine di metri da dei laboratori, delle eccellenze, fra l'altro, nella ricerca, e quindi grosso problema. Quindi il 30 si sì, il 30 appuntamento lì, per l'occasione il polo sarà occupato già da venerdì sera, quindi venerdì, sabato e domenica, hanno all'interno un sacco di cose, laboratori e quant'altro. Tutto questo ce lo spiegheranno immediatamente. Comunque, iniziamo dalla manifestazione in aeroporto. Tutti e tutte, la Piana non si arrende al potere del denaro, riprendiamoci salute, lavoro e territorio. La questione è conosciutissima oramai. Ci siamo? Quasi. Bene, abbiamo già provato a chiamare i compagni e le compagne del Polo, ma non ci siamo riusciti. Era qualche puntata fa, avevamo registrato un'ottima intervista che però abbiamo perduto per i nostri soliti problemi tecnici. Ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo tantissime. E li abbiamo anche oggi, naturalmente. Figurati se ce li facciamo mancare. Oh, mi sentite? Sì. Ciao, noi vi sentiamo? Sì, ciao. Ciao, ti sentiamo, esatto. Sì, noi ti sentiamo. Ok. Allora, stavamo parlando del corteo del... Sì. Stavamo parlando del corteo del 30 di sabato prossimo e parte dal Polo, quindi vogliamo un po' la vostra opinione riguardo alla questione. Avete in programma l'occupazione dell'università e quindi ci interessa il vostro punto di vista sull'aeroporto, perché secondo voi è estremamente dannoso per il Polo Scientifico? Bene, ci sono varie motivazioni per cui non ha molto senso costruire una pista così vicina al Polo Scientifico. Innanzitutto per gli edifici più vicini, che sono il blocco aule dove si tengono le lezioni, dove c'è la biblioteca, e il LENS, il Dipartimento di Fisica, sia la componente del rumore che delle vibrazioni sarebbe estremamente dannosa, di fatto impedirebbe il normale svolgimento della didattica e la normale ricerca all'interno dei laboratori, quindi è proprio abbastanza drammatica la presenza di una pista, sarebbe molto molto molto vicina. Una delle idee che non so se verrà realizzata oppure no è la presenza di un muro alto 10 metri per abbattere il rumore, però anche dalle prime stime, dai primi studi, questo muro funzionerebbe solo per le aule, diciamo, più prossime e sarebbe sostanzialmente inutile allontanandosi dal muro e quindi sarebbe semplicemente un altro fattore di rischio perché, diciamo, vicino a una pista dove devono atterrare degli aerei, avere un muro alto 10 metri non è sicuramente una delle cose migliori. Ecco, fra l'altro era prevista anche un'espansione del polo scientifico, vi erano di altri laboratori che dovevano essere spostati, vi era un edificio veramente da costruire, quindi questo è vanificato, gli investimenti dell'università sono praticamente... L'investimento dell'università è sicuramente vanificato, perché il blocco aula dove noi ora abbiamo lezione della biblioteca non potremmo più usarlo, perché sarebbe in area C, che è una delle, diciamo, le zone di rischio sono suddivise in A, B, C e D. Nell'area C non possono essere costruite delle zone, diciamo, con grandi numeri di popolazione, per esempio scuole e altre cose, e quindi il rettore dell'Università di Firenze non lascerebbe stare gli studenti nel blocco aule, quindi dovrebbe essere costruito un altro blocco aule, e quindi abbandonando questo edificio che però è giovane, nel senso che è un edificio che ha 15-20 anni, quindi dal punto di vista della programmazione è una cosa estremamente stupida e spreco di soldi, insomma. E, ecco, fra l'altro, la posizione del rettore è stata differente nel corso degli anni, perché è cambiata radicalmente. Mi ricordo che inizialmente era contraria e invece poi adesso ha dato il via libera. Il rettore precedente a questo, che era Tesi, aveva espresso posizione contraria, aveva inoltre fatto un ricorso, se non sbaglio, al Presidente della Repubblica. L'attuale rettore Dei, invece, nell'ultima conferenza da servizi di settembre ha espresso questo parere, che è il sì condizionato, quindi di fatto ha dato l'ok. La giustificazione che dà il rettore di questa scelta è appunto di dire di sì per poter, diciamo, contrattare su risarcimenti che l'università potrebbe ottenere, perché ovviamente l'università viene molto danneggiata dalla costruzione della nuova pista. E questa, insomma, è la motivazione che ci ha portato lui. Noi comunque come studenti non siamo allineati su questa posizione, pensiamo che il rettore avrebbe comunque dovuto ribadire un grosso no, perché sia per gli studenti che per i professori che tutti gli altri lavoratori del polo scientifico sono contrari, e il no del rettore sarebbe servito a ribadire che la presenza di questo aeroporto è estremamente dannosa per l'Università di Firenze. E quindi voi per questo venerdì, sabato e domenica avete in programma un'occupazione del polo? Sì, noi occupiamo in particolare appunto il blocco aule del polo scientifico. Da venerdì sera che faremo una festa per aprire l'occupazione. Poi appunto, come dicevi all'inizio, sabato pomeriggio alle 14.30 partirà il corteo per la manifestazione contraria all'aeroporto, parte proprio dal polo scientifico, quindi noi parteciperemo e speriamo di essere numerosi. Prego, sì. Ah, ok. E nelle altre giornate di occupazione pensavamo di fare dei progetti artistici e trovare delle forme di protesta, diciamo, alternative. Anche stamattina, infatti, qui al Polo Scientifico abbiamo fatto un flash mob. Cioè, ecco, infatti, ti volevo chiederti, sì, ho visto qualche foto su social network, ma dici perché deve essere stato veramente bello. Spero che sia stato bello, noi ci abbiamo provato. Comunque, sostanzialmente abbiamo, diciamo, rappresentato una pista con dei led luminosi proprio all'ingresso del blocco aule, con anche degli aerei un po' appesi variamente. E poi abbiamo fatto il giro di tutte le aule, appunto, fingendoci lavoratori in aeroporti che dovevano chiudere il polo, perché il polo appunto non potrà più essere agibile dopo la costruzione dell'aeroporto. Abbiamo simulato con delle casse il rumore di aerei che decollano e da atterrano, per dare un'idea del disagio. E niente, speriamo di aver lasciato almeno un po' di segno sul resto della componente studentessa e dei lavoratori del polo, insomma. Bene, benissimo. Allora noi ci vediamo sabato per il corteo, sicuramente, ripetiamo, alle 14.30 al polo scientifico. Sì. Contro all'aeroporto e sì al Parco della Piana. Assolutamente. Va bene. Bene. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Finalmente ci siamo riusciti a sentire le compagni del collettivo di scienze. Gli scienziati. Gli scienziati, che tanto, tra l'altro, queste cose le studiano. Abbiamo nuovi ospiti. C'hanno la scienza. Sono apparso qua dietro. Abbiamo ospiti che incombono. Va bene, comunque il 30 non c'è solamente l'appuntamento al polo scientifico, ma anche a Verona. A Verona ci sarà un pomeriggio caldo. Sì. È vero? Sì, sarà un pomeriggio caldo. Quindi un fine settimana di mobilitazioni. Non vi preoccupate, perché noi cercheremo di seguire più o meno tutti questi eventi, già dal venerdì, già dal sabato con questi due cortei, quello anche di domenica. Speriamo di fare delle belle dirette Wombat, tutte per voi. Ne avete sentita una ieri l'altra, insomma, ogni tanto le facciamo. Detto questo, noi passiamo parola. Passiamo parola. Cos'ha Grande Drago per noi? Un altro pezzo? Eh? E dai. E sentiamoci. Questi underground. Si fa un freestyle. Però anche freestyle, se sottofondi fanno... di Grande Drago mi stavano affogando. Freestyle nel potere. Dai, fammi cantare. Dai. Sparacelo. Noi lo vogliamo. Io non ho mai tardi per fare freestyle. Oh, dai. Se vengo in radio non canto, cioè... Portiamo dal vivo anche un po' l'espressione fatta sul momento. E bene. Giusto, rapida preparazione al freestyle. Aspettiamo il DJ controller. Certo, naturalmente. Sì. Stiamo improvvisando la regia, cioè così, tutto estemporaneo, eh. Quello che sentite voi è quello che vediamo noi. La regia. C'è un po' di rumori. Sì. Yeah. Questo è il suono di Underground. Super G controlli, grano alle produzioni. Yeah. Originalità. Si può avere un po' più di base in cuffia? Se è possibile. Ok, va bene così, ma contento. Se Super G lo fa così in Italia, questo suono drastico. Che quando arrivo questa musica io la mastico. Arrivo, senti, sono bombe al plastico. Super G che arrivo, senti, sono un rasta, mica casco. Arrivo sulla base, senti bene, improvviso. Io impazzisco, musica più buona, passa questo altro disco. E quando qui io mi diverto, musica più buona, senti, ti porto l'esperto. Quale esperto, senti, contro i fasci, contro queste merde. Super G che fa, sai, coltiva sì tante erbe. Ne fa tante grosse, ne fa tante tante. Super G che arriva, arriva sì, è un cantante. Arriva, faccio maggio reggae, pure underground. Quando l'importante che arriva, spinge questo sound. Questo suono, sai, diretto, non va avanti ma si ferma. Super G che arriva, senti, tu sei a terra. Io vado avanti, sempre sì, qui a attimo. Super G che arriva, senti, intenzioni e attico. Quando arrivo, senti, rispetto a Radio Wombat. Musica più buona, senti, qui si combina. Senti, loro spingono e lottano ogni momento. Super G che arriva, senti, ti rappresenta il Salento. In un momento da 0 a 100, senti, io ti porto questa espressione. Sì, lotta dura, musica più buona contro questa gente che ha paura. Super G che arriva, senti, e rispetta la natura. La gente qui si cura, ne ha cura. Arriva, senti, affanculo la paiura, sì. Originalità ancora non si ferma più. Questo suono arriva, senti, underground la crew. Senti bene qui in radio, senti che spingiamo. Musica più buona, senti, a te te la portiamo. La polveriera non si tocca, il CPA non si tocca. La gente qui è sciocca, capisce? Non capisce niente. Quando arriva, senti, colto in fascio. Contro questa gente non è intelligente. Super G pensa con la mente. Questo suono arriva, senti, è un'espressione veramente vera. La gente qui spera un suono. Quando arriva questa luna, resterà ancora nera oppure piena, non mi interessa. Super G che stressa, musica più buona, sì, te la porto pur complessa. L'importante è semplice, semplicemente mente semplice. Super G che arriva, senti, mica un complice. Bella a tutti quanti, massicci, Radio Wombat, Underground. Viva questo sabato presso la polveriera Spazio Comune, 30 marzo. Dopo tutti i cortei, se avete voglia di venire. Dopo tutti i cortei, lottare, assolutamente, con... finiti di camminare, osare, via, tutti in polveriera. Anche presenziare a queste serate nei centri sociali che... è importante perché certo, suo grande sostegno a tutti gli spazi autogestiti occupati della città, ma non solo. Sì, sono Wombat, se ne ricorda, venite sempre voi al Underground qui da noi e sì, poi sì. Vi vogliamo qua, no, però venite, però siete, no, sempre, siamo, sarete sempre esatto. Benvenuti. Evviva. Grazie mille. No, poi questo momento live finale sketch c'è stato veramente a bestia. ha detto volevo sfruttare l'occasione. Dai. Hai fatto bene, noi eravamo qua che aspettavamo. E nel frattempo grandi cambiamenti qua dietro a noi. Sì, esatto, perché si cambia arte, dalla musica si passa al cinema. Si passa al cinema. Si passa anche senza cinema. Pezzo, perché sono un momento sprovvisto, quindi no, dai, senza pezzo. Intratteniamo su un attimo. Aspettiamo la nostra padre. Sì. La, sentirete la famosissima voce della critica cinematografica che si stava appena appena sedendo sul trono qui accanto a me. Tutto in di- no, sul e trono, sul trono, no? Sgabello. Si parla di cinema come quasi ogni settimana, c'è una rassegna dei migliori film nelle sale fiorentine, quelli buoni, su quelli buoni, ciao, solo quelli ciao, buoni, ciao. Solo quelli buoni. Ebbene sì. Mi stanno le cuffie, scusate. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, anche oggi un sacco di roba questa settimana. Io non mi sento, però voi mi sentite sicuramente? Sì, sì, ti sentiamo. Molto bene. Ho perso tutti gli appunti, per cui... Ti sentiamo meglio se parli nel microfono. Sì, hai ragione. Scusa, ma è che ho perso tutto. Aspetta, aspetta. Dai, perdi sempre bene. Tutto, però. Dai, ma qui c'è dello spostamenti, un attimo. Cioè, vuoi il silenzio assoluto? No, tutto non voglio il silenzio in città. No, silenzio no, no, in città. Figurati. Se scherza, vabbè, se scherza. C'entra ora uno. Salutiamo gli ascolti. Questi underground sono stati, hanno spaccato in radio. Li rivogliamo assolutamente. Vado. Va bene. Via, allora, cinema. C'è un sacco di roba, per cui andrò velocissimissima, più del solito. Scusate, io così non vedo niente. Ok. Allora, questa settimana, partendo sempre dal ormai conosciutissimo, ormai noto, stranoto cinema della compagnia. Cinema teatro della compagnia prosegue. Qualcuno mi ha lanciato della roba, è un segnale, devo andarmene. Sì. Ok, no, perché quando affetto. Arrivano gli accendini no, non va bene. Apprezzamento, apprezzamento. Ah, va bene, ok. D'accordo. Allora proseguo. In un posto dove tipicamente carenti di accendini, se ti lanciano degli accendini va vuol dire che tutto io non sommato. Fumo, per cui è inutile, però grazie. C'è chi abbraccia, c'è chi bacia, chi lancia accendini. Va bene, d'accordo, prenderò gli accendini. Comunque, cinema teatro della compagnia prosegue il Korea Film Festival, che era già iniziato l'altra settimana, per quelli che ci hanno ascoltato, per quei due sciagurati. Tu nel corrente? Certo. Tu ci hai ascoltato, gli ho fatto anche la dedica l'altra settimana. I know. Mi ha ascoltato, ma io lo seguo sempre il Korea Film Festival. No, è vero. Va bene. Abbiamo visto un film sulla guerra navale e io e Drago anni sì. fa. Anni fa, bellissimo. Ora ne parliamo. Comunque, cinema teatro della compagnia prosegue appunto il Korea Film Festival con un sacco di roba che adesso non ve li posso elencare tutti perché sono veramente tanti, però vi posso dire che ho scelto di segnalarvi, vabbè, quindi Korean Film Festival prosegue 25, 26, 27, 28 fino a giovedì tutto, e molto interessante perché mercoledì 27 l'orario del cinema Odeon, che di solito l'ultimo spettacolo è quello delle 8, 8 e mezzo, fa un'estensione interessante fino alle 22:30 perché è una specie di notte horror, cioè danno dei film dal Korea Film Festival a tema horror. Beh, tra i coreani sono bravissimi. Esatto, siccome loro ci sanno fare con gli horror, e danno questo in particolare il mercoledì 27 daranno questo Haunted Asylum. Lui. Sì, lui, 22:30, e vabbè, vi posso dire anche di chi è, ma tanto, insomma, più o meno, è abbastanza, cioè, almeno per me è sconosciuto, io sono veramente, devo ammettere ignoranza nel cinema coreano. Comunque, Haunted Asylum, dentro il Florence Korea Film Festival, notte horror, quindi l'orario, ecco, si estende un po', 22:30. Chiaramente, vi ripeto, vi rimando al sito perché tutti i film in programmazione sono segnalati e recensiti sul sito del Teatro della Compagnia, con tutta la, cioè, ognuno con la sua scheda, e c'è tantissima roba, e ogni dalle 15 alle 17, cioè a cicli di vari orari, ogni orario un film diverso, di un regista diverso, sempre Corea, Corea del Sud, più o meno quasi tutti Corea del Sud. In particolare appunto Notte Horror con questo Haunted Asylum, che insomma probabilmente vale la pena. Ora io ancora non l'ho visto, se ce la faccio mercoledì sera. Bene, proseguirei con il cinema Spazio 1 in Via del Sole, perché prosegue anche lì il ciclo sul cinema spagnolo, che è tutti i martedì di questo mese e mi sono accorta, non l'avevo notato, però ho capito solo oggi, che loro dividono ogni martedì una zona, una città diversa della Spagna, quindi film provenienti proprio specifici da zone. E questo martedì, quindi 26, se non sbaglio, in particolare Barcellona, quindi ci sono due film molto interessanti, veramente interessanti, su Barcellona. Il primo è Barcellona notte d'estate, sono sei storie d'amore che si incrociano nella notte del 18 agosto 2013 sotto il passaggio della cometa Rose, alle ore 16 e alle ore 21:30, in versione originale con i sottotitoli in italiano. Vi ricordo che questi sono tutti film che hanno girato festival cinematografici in Europa e di autori spagnoli con interpreti spagnoli e che però in Italia non sono stati mai visti, sono inediti in Italia fondamentalmente, quindi insomma è interessante perché non capita di vederli e probabilmente nemmeno di rivederli. A proseguire sempre martedì c'è un altro film molto interessante, alle 18:50 orari strani e alle 19:40, che si chiama Cerca de tu casa ed è un musical che però narra gli sfratti che sono iniziati dopo l'esplosione della bolla immobiliare di qualche anno fa in Spagna, in Barcellona in particolare. Barcellona è una città molto particolare, molto insomma dalle Olimpiadi di anni e anni fa è stata vittima di gentrification spietate, rifatta completamente, i barrios sono stati completamente... È una città accennato che ha subito tantissimo, ci sono milioni di romanzi, milioni di film su questo. Vabbè, insomma. E questo film in particolare è interessante perché è, appunto, è un musical e la grande cantante di flamenco Silvia Pérez Cruz interpreta appunto la storia di Sonia che lotta per difendere i propri diritti, la propria dignità contro la perdita della sua casa e delle case del suo vicinato. Io lo consiglio, deve essere interessante, al Spazio 1 martedì 26. Il programma dello Spazio 1 poi continua ovviamente durante la settimana con altre proiezioni e oggi in particolare ripetono, per chi non l'avesse ancora visto, Bohemian Rhapsody, il film sui Queen, alle ore vari orari, dateveli a vedere, lunedì 25 e mercoledì 27. Ci sei? È successo qualcosa di strano? Nulla. Ok, va bene. Proseguirei invece con una chicca, la dico ora perché sennò poi mi passa l'entusiasmo, che al cinema Alfieri, oggi, domani e domani l'altro, c'è in programmazione il nuovo film di Mike Lee. Ed l'ha presentato lui sabato, tra l'altro, c'era proprio il regista alla presentazione del film. Mike Leake, per chi non lo conoscesse, è il regista di Vera Drake, del film su Turner di due anni fa, regista inglese. Io lo amo veramente spassionatamente. E lui presenta questo nuovo film che deve essere incredibile, un po' reduce da Turner, che era sempre un film in costume. Ha fatto un altro film in costume che si chiama Peterloo ed è la storia che io conoscevo pochissimo, basato su un evento storico nell'Inghilterra del 1816, quindi subito dopo Waterloo. Ci fu una strage pazzesca da parte dello Stato inglese sulla popolazione che chiedeva diritti, più diritti, e soprattutto stava morendo di fame proprio per l'esito della guerra contro Napoleone, che aveva messo fondamentalmente l'Inghilterra economicamente in ginocchio nonostante che avessero vinto, per un pelo oserei dire. Sì. Però Peterloo, appunto, che è probabilmente l'assonanza con Waterloo, è la storia di vari personaggi, un po' a quanto ho capito una struttura un po' alla Miserable, ci sono vari personaggi che appartengono a varie classi e che si uniscono in questa lotta, in questo episodio storico, e ho letto che morirono una quantità di perché l'esercito attaccò questa piazza piena di persone, come spesso accade storia. In Inghilterra, nella Manchester, dopo la vittoria inglese, dopo la vittoria di Waterloo, quindi tutti i reduci che tornano a casa, quelli che si salvarono e tornano a casa, subiscono questa, hanno questa vita fondamentalmente di miseria, perché l'Inghilterra era veramente poverissima in quel momento. Si organizzano e protestano, appunto, e lo Stato inglese li reprime e uccisero tipo una quantità di gente impressionante, tipo veramente sull'ordine di migliaia di persone. Ora ce l'avevo scritto, è un episodio storico pochissimo conosciuto ai non storici probabilmente, io lo conoscevo e non lo conoscevo. Mike Lee ha fatto questo film e conoscendo l'accuratezza insomma, di storica che Mike Lee ha nel trattare i temi storici, e l'ha dimostrato con il film su Turner, anche se quello era su un artista. Certo. E dell'anno scorso evidentemente si è appassionato al film in costume e ne ha prodotto un altro che ricorda un po' anche Barry Lyndon, un po' così a vedere le immagini è molto, ovviamente i temi, cioè anche un po' i costumi sono quelli, insomma l'aria è quello, il momento è quello, quindi... E vederlo assolutamente, e credo che valga la pena vederlo sul grande schermo, perché ha una fotografia, ho visto il trailer, è incredibile. E questo è 25, quindi oggi, domani l'altro, e insomma fino al 28 tutta la settimana in programmazione al cinema Spazio Alfieri, in orari più o meno pomeriggio, cioè c'è uno spettacolo il pomeriggio e uno spettacolo alle 21.30, quasi sempre alle 21.13. Anche qui vi rimando al sito, che è www.spazioalfieri.it, per vedervi gli orari giusti. Io questo, veramente consigliatissimo, perché non sono riuscita ancora a vederlo, ma lo vedrò sicuramente. Però io sono un po' di parte, magari vedetelo, fateci sapere. Bene. Oh yeah. Yeah. Peter Low, già il titolo, vabbè, ciao. Proseguo col cinema Odeon, che questa settimana ci propone una roba fighetta e una roba iper mainstream, che però vabbè, che però ci piace o no? Forse ci piace, non lo cioè? So, sentiamo. Devo capire, perché la roba fighetta, sempre in ovviamente si parla sempre di versioni originali, uh-huh, quando si parla del cinema Odeon, come ben sapete ormai, e ecco, propone un documentario su Gauguin, che dice molto bello, ora vanno molto questi documentari artistici, sì, e la storia piacquono. Ed è appunto questo documentario su Gauguin e sul suo pellegrinaggio appunto a Tahiti, ma fino insomma a tutte le sue esplorazioni e viaggi e fuga dalla civiltà, e come questo appunto ha influenzato la sua arte in questa visione veramente, no? Non so, appunto, se conoscete l'artista, in questa visione molto delicata, molto poco colonialista come occhio, molto, insomma, molto interessante, che spezza con i temi, con tutti i temi che erano stati tipici della pittura fino a quel momento. Quindi per chi fosse interessato, Gauguin a Tahiti è ripetuto oggi, domani e mercoledì al cinema Odeon, 16.30, 18.30 e 9 p.m. E poi ragazzi, il 28 di questa settimana, appunto questa settimana, giovedì 28, esce Dumbo di Tim Burton. Ah, questo è il mainstream. Già. Aia. Sì, se, però se fa un capolavoro come Alice nel Paese delle Meraviglie, siamo a cavallo proprio. Siamo rovinati, però forse c'è da ben sperare, Bronco, perché qui c'è un po' di gente un pochino meglio, cioè, insomma, c'è un... Già di per sé psichedelico, no, Dumbo. Dumbo aveva magari una bellissima... va bene, ci sarebbe a parlare un'ora, magari la volta prossima. Ciao, sì. Dumbo tu parli della colonna sonora, vero? Colonna musica, ma gli effetti speciali di... Ma i rosa elefanti, io sono curioso solo di quelli. Esattamente, allora, quello. Lo spezzone onirico di Dumbo, in cui lui sogna tutta quella parte bellissima, che è stupenda, quello era di Saul Bass, era un illustratore americano che faceva tutti i titoli di testa anche per i film di Hitchcock, la parte animata di Vertigo di Hitchcock, era proprio un illustratore, e lavorò con Disney su questo particolare Dumbo, e quella è la parte forse più bella di Dumbo, quella rimane più impressa, quella col sogno, la parte poi lisergica, no? Fondamentalmente, perché lui, mi ricordo, fa beve, si ubriaca e sogna. Sì. Non so come Tim Burton trasporrà queste magie, probabilmente non ci riesce, perché non è possibile. Vabbè, però magari una chance ci dà, dai. Ma diamogli una chance. Io leggevo che c'è un mega cast, Danny DeVito, Michael Keaton. Quando c'è Michael Keaton io vado sempre un po' sul sicuro, però forse è un errore. Colin Farrell, ecco, appunto un altro punto debole. E insomma, mio, personale, insomma. Però devo dire che insomma lui ha cambiato la storia, ovviamente, ha arricchito, ha allargato, ha messo i personaggi umani, perché è un misto tra insomma ovviamente digitale e così e filmico. Quindi vedremo un po', chi fosse interessato a vedere questa versione di Dumbo in versione originale, quindi all'Odeon, altrimenti la trovate in tutti i cinema del mondo. Da giovedì, credo. E invece all'Odeon la trovate in lingua originale, sempre 28, 29, 30 e 31. scusate, mi sono persa. Ecco, sempre 18:06:30, 21:15, venerdì, sabato e domenica invece alle 21 la sera. Questo, quindi, è insomma, Dumbo? Questo è Dumbo. Okay. Quindi se, insomma, se vi interessa, e se lo dovete vedere al cinema, se lo volete vedere al cinema, vi consiglio di vederlo all'Odeon, perché almeno lo vedete in lingua originale, che è, ragazzi, Michael Keaton in lingua originale merita sempre. Anche Dumbo merita in lingua originale. Questo Dumbo sì, esatto, svolazzare le orecchie. Il trailer pare molto carino. Non barrisce, so, lui. Ragazzi. Ma è in lingua originale. È in lingua originale. Barrito originale. Che basta, smettetela. Scusa. Niente, va bene. Basta, direi. Accidenti. Poi? E la consiglio della settimana? Vogliamo fare? Cioè, occupatene te, perché io non ce l'ho fatta vederlo alla fine. Filmico? Bene, sì. Sì. Consiglio settimana. Consiglio della settimana? Che cosa sarà? Abbiamo tu, okay, la settimana tutta. Che film, di che film abbiamo parlato? Lo interrogo. Non eri attento, lo sapevo. Era in bagno. Cacchio. Era in bagno, giusto. Ah, 4 meno. No, un affare di famiglia. Un affare di famiglia. Non l'hai visto ancora? No, non l'ho visto. È mesi, te lo dico. Aia. Non è vero. Io gliel'ho detto, tipo a lui. Niente, scusate, riprendo un attimo l'appunto. Beh, no, avevo scelto questo film come consiglio della settimana, perché si legava un po' ai temi del consiglio della settimana scorsa, giusto? Tra l'altro anche il titolo, Affari, Affari. No, Affari di famiglia era quello dell'altra settimana. Questi sono Piccoli Affari Sporchi, in italiano. Scusate, riprendo gli appunti. È un film un po' datato ormai, perché è del 2000, ve lo dico subito, è del 2002, quindi... Preistoria. Per voi giovani, preistoria. Che volevi, cioè, piano, Del 2002, è un film di Stephen Frears. Vabbè, Stephen Frears, non spero non abbia bisogno di presentazioni, il regista di le Relazioni Pericolose, su tutto. Ma... grazie. Ecco, ho capito. Filomena, l'ultimo, insomma, un grande regista, The Queen, quello sulla regina, insomma, vabbè. Questo è un piccolo grande film, l'ho sempre trovato un po' sottovalutato, è un film che è stato poco al cinema, in realtà veramente, insomma, veramente interessante. Un po' per il tema che avevamo trattato col film della settimana, appunto, della settimana scorsa, l'alterità, il concetto di famiglia non tradizionale, la legge morale contro la legge dello Stato. Questa è la storia di un immigrato senza permesso nella Londra dei giorni d'oggi, che conduce una vita molto difficile, perché di giorno fa il tassista, la notte fa il concierge in un hotel, divide la casa, quindi proprio divide l'appartamento, però non si incontrano mai, perché lei dorme nelle ore in cui lui va al lavoro, certo, con un altro personaggio, un'altra ragazza, un'altra immigrata, un'altra donna, che la fa Audrey Tautou, che era l'attrice di Amélie, che è stata molto in voga per un periodo, non so che fine abbia fatto, ma insomma, ecco, è stata un'attrice piuttosto in voga, e loro vengono ai loro come dire, infilati in una storia, e qui comincia un po' il thriller, che è stato pubblicizzato come un thriller, in realtà è una storia fondamentalmente di immigrazione, di diritto. Lei viene, insomma, loro vengono coinvolti in una sordida storia di scambio, di vendita di organi, che avviene in questo hotel, di contrabbando organi. Lei viene, insomma, molto, e vabbè, questo poi non ve lo racconto, il thriller, chi se lo vuole vedere, però al di là il film è interessante perché ha più binari, appunto. Uno è questo del thriller, del tipicamente proprio così hitchcockiano, e poi però c'è il contesto appunto dell'immigrazione, di questa vita bruciata pur di riuscire a sostenere le spese in un paese che non ti vuole, fondamentalmente. Mentalmente lei è ricattata continuamente dai datori di lavoro, ecco, è costretta poi veramente a scappare da ogni posto, e lui addirittura deve scappare proprio fisicamente perché è illegale. Ognuno di questi due vissuti a un certo punto si incrociano, ecco, grazie purtroppo a questi eventi delittuosi, e le loro vite cambiano proprio da il loro incontro, li fa cambiare, li costringe a smettere di essere soltanto vittime e a cercare di viversi la loro situazione di alterità in maniera più cosciente, attiva. E attiva. Molto bello, per chi lo volesse vedere, appunto, rivedere in streaming, penso che si trovi. Ricordiamo il titolo? Il titolo è Piccoli Affari Sporchi, del 2002, e il regista è Frears, Stephen Frears. Vi volevo dire il titolo in inglese, magari lo trovo, però non lo dirty, so. Dirty Panny. Si lavano in casa. Si lavano in casa. In the home. In the house. Dirty clothes, washing in the house. Su questo direi basta. Mi sono umiliata abbastanza. Vediamo. Bene. Tutti al cinema. Sapere magari se qualcuno va a vedere qualche film. Esatto, se scriveteci, qualcuno ha anche dei Wombat, che c'è in Siberia.net, e noi vi ignoreremo. No, no, non è vero. E noi vi risponderemo e vi faremo vedere. Magari se c'è un film che vi interessa così, che sia recensito, chiedete. Se avete biglietti da regalare, ci potete regalare delle cose, va benissimo. Benissimo. Dei dolcini in particolare, se qualcuno li vuole portare. Bene. Con quindi questo chiudiamo, sì, buona visione, e forse chiudiamo a fuoco le polveri. Siamo lunghissimi. La volete un'ultima notizia velocissima? Vai. Che notizia? Nuova occupazione a Torino. Bah! Ieri, sì, lo striscione dice sì. Contro ogni sgomberi e repressione, una nuova occupazione. Una nuova occupazione in via Giovanni Battista Piazzetta 23 a Torino. Benissimo. Già ieri c'è stato un primo concerto. Dai, solidarietà. Viva! Vi salutiamo su queste note positive. E la rassegna eventi seguirà. A breve. Seguirà la rassegna eventi, seguirà Coccoli al Silicio e poi naturalmente tutto il palinsesto, tutta la settimana. Lo trovate su www.wombat.noblogs.org. Brava. Viva. Brava. E ci potete anche scrivere. Bravissima. Potete scriverci. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo una mail che guardiamo sempre tutti i giorni. Posta wombat@insiberia.net. Viva. Vivone. Wombat. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Radio Bomba.